Nuove regole per le primarie del Partito Democratico. Si accetta qualsiasi candidato, purché non sia nato a Firenze, non sia sindaco e soprattutto non abbia tutti i capelli neri. Dover fare il turno, il doppio turno. Prodi ha vinto col turno secco, Veltroni col turno secco, Bersani col turno secco. Non capisco perché fare il doppio turno adesso. Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Perché? Vengo!